Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia inviò da Gerusalemme al resto degli anziani deportati, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia dopo la partenza del re Jeconia, della regina, degli eunuchi, dei principi di Giuda e di Gerusalemme, dei fabbri e dei magnani da Gerusalemme. La mandò per mezzo di Eleasa, figlio di Safan, e di Gemaria, figlio di Chelchia, che Sedecia, re di Giuda, inviava a Nabucodonosor, re di Babilonia, in Babilonia. Essa diceva: Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che ho fatto esiliare da Gerusalemme in Babilonia. Costruite case ed abitatele. Piantate giardini e mangiate i loro frutti. Prendete mogli e generate figli e figlie. Prendete mogli per i vostri figli e date le vostre figlie a marito, affinché generiate figli e figlie, affinché vi moltiplichiate lì e non diminuiate. Cercate la pace della città dove vi ho deportato e pregate per essa il Signore, poiché attraverso il suo benessere verrà anche a voi benessere. Così dice infatti il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Non vi seducano i profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini. Non date retta ai loro sogni, poiché essi profetizzano menzogna nel mio nome. Non li ho inviati. Oracolo del Signore. Così infatti dice il Signore: Soltanto quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e realizzerò per voi le buone parole, riconducendovi in questo luogo. Io infatti conosco i piani che sto progettando sul vostro conto, oracolo del Signore. Piani di pace e non di sventura, per darvi un futuro pieno di speranza. Mi invocherete, camminerete dietro di me, mi pregherete ed io vi ascolterò. Mi cercherete e mi troverete, poiché mi consulterete con tutto il vostro cuore. Io mi farò trovare da voi, oracolo del Signore, e ricondurrò i vostri deportati e vi radunerò di mezzo a tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove io vi ho disperso, oracolo del Signore, e vi farò ritornare al luogo dal quale vi ho fatto deportare. Voi direte: Il Signore ci ha suscitato dei profeti in Babilonia. Ma così dice il Signore al re che siede sul trono di Davide e a tutto il popolo che abita in questa città, i vostri fratelli che non sono stati deportati con voi. Così dice il Signore degli eserciti: Ecco che io invio contro di loro la spada, la fame e la peste, e li renderò come fichi marci che non si possono mangiare per quanto sono cattivi. Io li inseguirò con la spada, con la fame e con la peste, e gli renderò un orrore dinanzi a tutti i regni della terra, esecrazione, stupore, scherno ed obbrobrio in mezzo a tutte le nazioni dove li disperderò. Perché non ascoltarono le mie parole, oracolo del Signore, quando inviai loro i miei servi, i profeti, tempestivamente e sollecitamente. Non li ascoltarono, oracolo del Signore. Ma voi ascoltate la parola del Signore, o deportati tutti, che io ho mandato da Gerusalemme a Babilonia. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, ad Acab, figlio di Colaia, e a Sedecia, figlio di Maasia, che vi profetizzano menzogna nel mio nome. Ecco, io li do in potere di Nabucodonosor, re di Babilonia, e li ucciderà sotto i vostri occhi. Da essi si trarrà una formula di maledizione che useranno tutti i deportati di Giuda che sono in Babilonia. Il Signore tratti come Sedecia e come Acab, che il re di Babilonia arrostì con il fuoco. Questo poiché commisero nefandezze in Israele, commisero adulterio con le mogli del loro prossimo e pronunciarono parole menzognere nel mio nome quando io non glielo ordinai. Io so e testifico, oracolo del Signore. A Semaia, il Nechelamita, dirai così. Così dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele. Tu hai mandato a tuo nome lettere a tutto il popolo che è in Gerusalemme. Al sacerdote Sofonia, figlio di Maasia, e a tutti i sacerdoti dicendo: Il Signore ti ha costituito sacerdote al posto del sacerdote Ioiada per essere sorvegliante nella casa del Signore contro ogni esaltato che profetizza, affinché lo metta ai ceppi nella gogna. Orbene, perché non reprimi Geremia di Anatot che profetizza tra di voi? Infatti egli ci ha inviato una lettera in Babilonia in cui dice: Sarà a lungo, costruite case ed abitatele, e piantate giardini e mangiatene i frutti. Il sacerdote Sofonia lesse questa lettera alle orecchie di Geremia, il profeta. Allora la parola del Signore fu rivolta a Geremia in questi termini: Manda a dire a tutti i deportati. Così dice il Signore a Semaia il Nechelamita. Poiché Semaia ha profetizzato a voi, mentre io non l'ho inviato e vi ha fatto confidare nella menzogna, per questo dice il Signore. Ecco, io visiterò Semaia il Nechelamita e la sua stirpe. Non avrà alcuno che abiti in mezzo a questo popolo, e non godrà della prosperità che io accorderò al mio popolo, oracolo del Signore, poiché ha predicato la ribellione contro il Signore.